Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese, le frequenze le facciamo dire ai nostri ospiti, Pulno Ponches. Sono 98.6 per la bassa veronese e le zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, poi le nuove frequenze, 91.5 per la zona Lago di Garda, 94.7 per la Valpolicella, e si può ascoltare Radio RCS anche in web streaming al sito www.radiorcs.it. E dalle formazioni storiche con influenze jazz and blues passiamo ad alcuni eroi del rock blues americano e inglese. Siamo partiti con la Steve Miller Band, che dal disco Fly Like an Eagle del 1975 ci hanno fatto ascoltare la canzone Rockin' Me. Chitarrista storico, ma che negli ultimi decenni non è più riuscito a mantenere un livello di popolarità alto. Secondo voi perché, nonostante abbia scritto canzoni abbastanza note? È molto difficile coniugare l'espressione artistica e la commercializzazione della stessa, soprattutto quando poi c'è un occhio critico sul passaggio tra gli anni 70 e quelli 80. Shooting Stars and Marshmallow è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che sta dietro questa frase? Beh, ho pensato di chiudere dentro una frase un concetto che potesse spiegare la nostra musica. Shooting Stars sono le stelle cadenti. E cosa si fa quando si guardano le stelle cadenti? Beh, si spera in qualcosa di grande, in qualcosa che vuole, che potrebbe avvenire. Mentre le cose piccole, perciò un marshmallow, l'hai mai assaggiato un marshmallow, che sarebbe uno zuccherino, è la cosa che in verità ti dà più soddisfazione. Perciò guardare le cose grandi, ma le cose piccole sono quelle che ti danno la più grande soddisfazione. Nel 1973 il chitarrista Jeff Beck forma un power trio con Tim Bogart e Carmine Appice, ex membri di Vanilla Fudge e per breve tempo anche dei Cactus. Il trio dura pochissimo, ma sforna due album davvero fenomenali. Nel 1974, una tour nel paese del Sol Levante, viene immortalato sul Live in Japan, che si apre con una versione davvero devastante di Superstition di Stevie Wonder. Jeff Beck ha sempre stupito per la sua genialità e messo assieme ad altri due mostri di bravura ha generato una miscela esplosiva, ahimè durata troppo poco. Voi cosa ne pensate? Ma probabilmente dalla storia conosciuta ci saranno stati dei problemi a livello personale. Tanto per cambiare. Sì, come succede di spesso, quindi. Tra i musicisti. Nonostante abbiate, come detto, già una storia breve, quali sono state finora le vostre maggiori soddisfazioni in campo artistico come band? Quando Stefan Bowman, noto produttore scandinavo, si è offerto per mixare il nostro singolo Myself. Quindi già una bella soddisfazione. Sì, dai. Sì, direi proprio di sì. Vediamo allora la seconda parte con i Takes di Rory Gallagher. Nel 1970 il trio Rock Blues partecipa al Festival dell'Isola di Wight e successivamente si scioglie per aprire la strada al successo al chitarrista irlandese da Live at the Isle of Wight del 1971, il brano Sinner Boy. Noi ci ritroviamo in breve per la terza parte di Rock Legends quando ascolteremo sei brani del disco dei Pull No Punches dal titolo Shooting Stars e Marshmallow. Non mancate! We'll be right back. rolling car on the side of the hill. Wait one moment, walk right over here.